Rassegna Stampa Europa. Buongiorno a tutti da Giulia Crivelli, bentornati alla rassegna stampa europea, chiamiamola così. Ci siamo sentiti l'ultima volta 2 settimane fa, poi settimana scorsa c'è stato Gigi Donelli e io ricordo che avevamo toccato insomma il tema dell'austerità e delle critiche all'Unione Europea e quello della disoccupazione. Direi di tornarci perché comunque è un bollettino continuo tutti i giorni ed è interessante capire che appunto non è una fissazione italiana ma che sono molti giornali europei a occuparsi di questi argomenti. Vi segnalo per esempio un articolo dal diario de Noticias, che è un quotidiano portoghese. Il titolo è "Anche Roma è contro l'austerità" e ve ne leggo un pezzo tratto dalla traduzione che ne ha fatto Internazionale, perché il tema è proprio quello dell'austerità e di come forse questa austerità andrebbe, senza forse, va ripensata, perché appunto non ne vediamo i risultati auspicati. La ricetta dell'austerità scelta dall'Eurozona e dall'Unione Europea non sta dando i risultati sperati. In tutta l'Unione, nell'ultimo trimestre del 2012, sono diminuiti i risparmi, i profitti e gli investimenti. Nella recessione generale, il clima imprenditoriale e l'umore dei cittadini hanno continuato a peggiorare anche nei primi 4 mesi del 2013. Sapete che in macroeconomia, appunto, questi due indicatori, da una parte gli investimenti per quanto riguarda le aziende e dall'altra i risparmi per quanto riguarda i cittadini, appunto, sono i due indicatori che vengono presi per guardare come macroeconomicamente le cose vadano o bene o male, uno dei tanti indicatori naturalmente. Conclude il diario de Noticias menzionando, questo ci fa anche piacere, i piani del nostro nuovo governo, il governo Letta, e cita le parole del premier Enrico Letta, che dice e scrive il diario de Noticias, e Letta parla di margini di manovra che da leader della terza economia dell'Eurozona ha chiesto il sostegno di Angela Merkel. Se l'Italia avrà successo, forse anche il resto dell'Europa del Sud deciderà di seguire il suo esempio. Quindi insomma un auspicabile prima mossa dell'Italia, che dia il coraggio anche a chi è fortemente contestato per conti secondo certi parametri troppo in rosso. Appunto, se l'Italia si muove per contrastare questa austerità richiesta, forse anche altri paesi avranno il coraggio di farla. L'altro tema di cui avevamo parlato, avevamo preso un articolo dell'Huffington Post che, consultato online, aveva anche una bellissima infografica. L'altro tema era la disoccupazione. Se ne occupa anche Le Soir, che è un quotidiano belga, e riprende questi dati che credo davvero sia bene ricordare. I disoccupati nell'Unione Europea sono più di 26 milioni, una cifra mai raggiunta prima d'ora. Se si tiene conto della sottooccupazione, il quadro si fa ancora più preoccupante. Naturalmente avevamo segnalato la scorsa volta come il tema sia poi ancora più doloroso se si guarda la disoccupazione giovanile. Avevamo anche detto che è difficile naturalmente avere delle statistiche precise, perché a volte i giovani vengono considerati disoccupati ma forse stanno studiando, forse sono in attesa, però insomma gli indicatori sono oggettivamente sempre in peggioramento, quindi siccome si suppone che vengano sempre misurati nello stesso modo, il peggioramento è oggettivo. Vi leggo poi la parte sul part time, che l'altra volta non avevamo, l'articolo che avevamo letto dalla Huffington Post non aveva considerato, sul part time senza scelta. Molti lavoratori part time, scrive Le Soir, non sono soddisfatti della loro situazione e vorrebbero lavorare di più, ma non possono. In Europa il part time imposto e non scelto riguarda un lavoratore a orario ridotto su 5, in Belgio 1 su 7. La percentuale di lavoratori part time disponibile a lavorare di più è in aumento dall'inizio della crisi economica. Qui parliamo sempre a livello europeo, e infatti nel 2012 Eurostat, che è l'equivalente a livello europeo l'Istituto di Statistica, nel 2012 Eurostat ne ha contati 9,2 milioni nell'Unione Europea. Questi tre gruppi formano quello che l'Istituto Statistico ha opportunamente definito un alone intorno alla disoccupazione. Tenerne conto permette di ottenere un'immagine più articolata e più chiara del fenomeno della sottooccupazione. A proposito dell'Huffington Post, ci torniamo questa settimana e vi segnalo, anche per così magari cambiare un po' tema, anche se poi tutto si lega e tutto è connesso, questa volta l'Huffington Post UK si occupa delle misure che stanno prendendo in considerazione il Parlamento europeo e le istituzioni europee per contrastare l'evasione, che sappiamo è un problema. L'evasione fiscale è un problema enorme in Italia e anche in Grecia, e probabilmente sicuramente in misura leggermente minore in Spagna e in Portogallo, ma è un problema in tutta l'Unione Europea. Secondo l'Huffington Post, questo problema costerebbe all'Unione Europea €1 trilione, un trilione vuol dire 1 miliardo di miliardi. E l'Huffington Post, che sapete è un quotidiano online, forse è addirittura riduttivo se, definirlo così, è un sito di notizie online perché viene aggiornato continuamente, parla di questo, di questo report messo insieme dai membri del Parlamento europeo che verrà votato il 22 di maggio per proporre una misura per contrastare l'evasione fiscale. Il goal è addirittura di questi volenterosi parlamentari europei di dimezzare l'evasione fiscale da qui al 2020. Ricordiamo ancora una volta, anche se forse molti ascoltatori lo sanno anche meglio di me, che il Parlamento europeo è in realtà un Parlamento che non legifera, nel senso che sì, propone delle leggi, propone delle raccomandazioni, poi sappiamo che in realtà le vere leggi europee le fa la Commissione europea, che è l'equivalente un po' di un governo, quindi c'è questa stranezza che tutti auspicano verrà presto risolta, cioè di avere un braccio esecutivo che è veramente solo un braccio esecutivo e poi un vero e proprio Parlamento che legiferi. Però il Parlamento ha questa capacità di proporre, di fare delle proposte alla Commissione europea e poi di votare su quello che la Commissione europea decide. Quindi, insomma, questi parlamentari il 22 maggio voteranno su questo grandioso piano di dimezzamento di questo trilione di evasione fiscali entro il 2020, cioè in 7 anni. È veramente un goal ambizioso. Poi vi cito invece da un sito di notizie addirittura che viene dal mondo arabo e che però si interessa al lavoro del Parlamento europeo e cita quest'altra iniziativa che sta prendendo la Commissione del Parlamento europeo, la Special Committee on Organized Crime, quindi un po' come le commissioni che abbiamo scelto, che stiamo scegliendo adesso, che stanno scegliendo a Roma, i cui presidenti, in realtà si stanno scegliendo i presidenti e poi anche i membri delle commissioni, anche il Parlamento europeo è organizzato così, come il Parlamento italiano, come moltissimi altri parlamenti. Ci sono quei luoghi dove poi viene fatto tanto del lavoro che poi viene votato in aula. Ecco, ce n'è una sull'organized crime e in questo caso, dice questo sito di notizie del mondo arabo, è interessante vedere come come il Parlamento europeo si stia anche occupando della confisca ai beni dei mafiosi. Per mafiosi naturalmente si intende non soltanto la mafia siciliana, ma tutta la criminalità organizzata e non soltanto quella che è nata o si sviluppa o ha origine in Italia, ma purtroppo è naturalmente diffusa in tutto in tutta l'Unione Europea. Però qui, per esempio, si fa il caso, si parla del caso per dare l'idea ai lettori di che cifre si stia parlando, di questo 1,7 miliardi di beni confiscati a Vito Nicastri, che è un mafioso della provincia di Trapani. E qui si cerca di capire, appunto, anche il Parlamento europeo vuole capire quali siano i modi migliori per utilizzare questi beni confiscati alla mafia. Vi cito poi dal Financial Times, del famoso Münchau, che è questo columnist che forse seguendo magari altre trasmissioni di Radio 24, come la trasmissione di Sebastiano Barisoni, ne parla spesso perché è un signore che ce l'ha un po' con noi e a volte ci critica molto duramente. Vi ricorderete il durissimo attacco a Mario Monti quando era ancora primo ministro, poi al quale Mario Monti aveva risposto. Insomma, è un vice direttore del Financial Times che prende spesso di mira l'Italia. E in questo caso, però, la sua column si intitola Un euro diverso per ogni paese e cerca di affronta il tema interessante di come un euro, sì, l'euro è la moneta unica di molti paesi dell'Unione Europea, però ha un valore diverso. Scrive: da uno studio della BCE, la Banca Centrale Europea, è emerso che la ricchezza netta delle famiglie del Nord Europa è inferiore a quella dei paesi del Sud. Vi ricorderete, noi abbiamo più case dei tedeschi. I giornali tedeschi hanno cominciato a dire che i poveri tedeschi stanno salvando i ricchi ciprioti. Si sbagliano, dice Münchau, ma nel rapporto c'è una verità inquietante: c'è un tasso di cambio diverso tra le economie dell'eurozona. E conclude dicendo: evidentemente l'euro non ha lo stesso valore in tutta l'eurozona. Naturalmente la BCE non può arrivare alla conclusione che l'euro non ha lo stesso valore in Germania e in Spagna, ma l'imposizione dei controlli sui flussi di capitale a Cipro ha stabilito un precedente. Ora l'isola ha una nuova moneta, l'euro cipriota. Secondo lo studio della BCE, anche la Germania ha una sua moneta. rispetto all'euro tedesco, che è decisamente sottovalutato. Vi segnalo proprio l'ultimissima cosa, questa è dal Prague Post, che è un quotidiano di Praga che però viene messo online in inglese così tutti lo possiamo leggere, e qui invece si parla della Corte Europea, un'altra delle istituzioni europee, che si occuperà della detenzione di Julia Timoshenko, l'ex premier dell'Ucraina, che come ricorderete è stata poi accusata di vari crimini e incarcerata, ma ci sono parecchi dubbi sull'equità del processo che lei sta subendo e anche forse della sua detenzione. Come sempre il tempo è tiranno, avevo altre cose da segnalarvi, spero ci sarà tempo la prossima settimana. Un sereno weekend a tutti da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.